Racconti della Belva di Carlo Alberto Carnevale Maffè e Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, in questo sabato mattina, sabato 21 febbraio, San Pier Damiani, per chi festeggia secondo il calendario liturgico, sono le 17 primi 17 secondi, siamo in diretta di studio di Radio 24 di Milano, qui con i compari Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio e Oscar Giannino, che vi saluta, vi ringrazia. Se ci sentite, ci scaricate in podcast e subito vi dice su quali temi oggi telefonarci all'800 24 00 24, darci le vostre opinioni 349 238 6666, e su Twitter con l'account Conti della Belva. Conti della Belva, è proprio Conti così. Della Belva. Allora, SMS l'abbiamo detto? SMS 349 238 6666. Allora, innanzitutto oggi le telefonate noi vorremmo che ci arrivassero, perché dovete darci la vostra canzoncina, sì. Il vostro contributo, per sì. Gli auguri di compleanno. Auguri Matteo, perché è un bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo. Nessuno lo può negare, a parte alcune notazioni critiche che invece siamo qua a fare. Ovviamente. Allora, è un anno del governo. Avete letto ieri dei Tedeum, avete letto sui giornali. Ma il sole splenderà per 365 giorni, non pioverà e rimarrà la neve anche d'estate per chi vuole sciare. Tutto questo grazie al governo che è italiano, che riapre la ripresa. Siamo il paese europeo che cresce più di tutti. Una grande molla che è pronta a scaricarsi. Finalmente cambia tutto. Tra una settimana cambia anche la Rai. Nel frattempo non ha parlato neanche una volta col direttore generale Gubitosi, ma noi siamo fiduciosi. Naturalmente, mai essere troppo critici, mi sono beccato dell'avvoltoio due sere fa dal presidente del Consiglio. Un po' spelacchiato, effettivamente, perché, volendo dire. Molto spelacchiato. C'è scritto Giocondo, molto spelacchiato, perché ho osato ricordare che ha messo le tasse retroattive sul risparmio. Vabbè, però, detto tutto questo, quindi telefonateci per questo, ma i temi della trasmissione non sono solo questi, perché oggi, come commenteremo innanzitutto anche ovviamente la capitolazione dei greci ieri sera, capitolazione, resta il fondo monetario eccetera eccetera, la commenteremo, sentiremo come la pensate voi, commenteremo i provvedimenti assunti ieri dal governo, questa lenzuolata di liberalizzazione con un po' di pezzi. Ma che lenzuolata, ma non è una piccola federa, ma non è una federina, è una federa lacera, è un pannolone per incontinenza, è una mutanda di ghisa, te lo dico io. Incontentabili, hanno svuotato i cassetti di cose che erano già lì da alcuni anni, diciamo, va bene. E qualcuno li ha rimessi dentro comunque. Sì, vanno presi, li ha rimessi dentro, hanno buttato la chiave. E detto questo, poi invece approfondiremo anche alcune questioni. Una di queste è 140.000 precari della scuola da assumere, ma benissimo, finisce il precariato, perché finiscono i Cococò, i Cocopro, il governo l'ha dichiarato, 140.000 assunti, ma andiamo un po' a vedere dentro, ma è veramente tutto positivo se molti di loro non insegnano le materie che servono, il più insegna materie che non servono, eccetera eccetera. Vedremo i dati, ma chiamateci, sia che siate precari della scuola, pieno rispetto e per carità, perché lo Stato si è comportato male con voi, però vediamo anche qual è l'impatto di questi 140.000 che arrivano e dove metterli, perché c'è anche un problema di ripartizione geografica. Quindi prima questione questa. Seconda questione, è apparsa e scomparsa in pochi secondi, secondo le migliori tradizioni di alcuni provvedimenti fiscali che poi non vengono emanati, perché per l'ennesima volta la delega fiscale non è stata attuata, non c'era Padoan, ma è comparsa e riscomparsa la tassa sul contante. E già. Tenteremo di capire se ricomparirà presto, che cosa vuol dire, anche qui lotta all'evasione fiscale, però intanto diteci anche voi, sì. Siete favorevoli, siete contrari, eccetera. È scomparso eccetera. Anche il contante, volendo dire, perciò la tassa sicuramente quella non si è più vista. Quindi ragazzi è così. Poi vi racconteremo una storia molto divertente che io ho appreso, perché non finisco mai di apprendere, perché c'è in Italia questa tassa sul numero di minuti della musica dal vivo negli intrattenimenti. A seconda del numero di minuti, la sera nei locali si pagano aliquote bestialmente diverse. Piccolo particolare, questa particolarità solo italiana sta desertificando tutte le imprese straniere, che sono grandi catene che organizzano eventi, che in Italia non le organizzano più, perché vi spiegheremo com'è la tassa sulla musica dal vivo, quella vera e naturalmente quella finta, perché siamo italiani e ci organizziamo a questo punto per tentare di però detto tutto questo, voi telefonateci innanzitutto per dirci come la pensate su questo compleanno, e però adesso giro sulle cose che ci hanno fatto, oltre a tutte queste, arrabbiare particolarmente in questa settimana. Carlo Alberto. Abbiamo fatto veramente arrabbiare ieri sera la marcia indietro del governo sulle liberalizzazioni. Ce n'è una in particolare che mi stava a cuore, quella delle farmacie, e l'altra quella sui taxi e sugli NCC. Dopo gli attacchi vergognosi a Benedetta, Rese, Lucini, mi aspettavo il governo desse un segnale di solidarietà e di liberalizzazione, e invece ancora una volta hanno vinto le lobby, hanno vinto gli amici degli amici e hanno vinto le scelte di pavidità, e questo francamente per me è molto molto molto sbagliato. Ma io una cosa che ti riguarda, perché ho visto che lunedì eri a Piazza Pulita, diciamo, poi l'ho recuperato perché non ho visto in diretta la trasmissione, ho visto lo scambio tra te e Andrea Romano, neoacquisto del Partito Democratico, ex Italia Futura, ex Scelta Civica, che diceva non si tratta di tassazione del risparmio ma delle rendite. Ah, le famose perché, rendite. Esatto, perché c'è differenza tra chi produce e lavora e chi i soldi li mette sotto il materasso. Quindi, visto che i depositi bancari sono tassati al 26%, le obbligazioni societarie al 26%, i dividendi sulle azioni al 26%, questi sono materassi. Esatto. Questi sono, per l'onorevole professor Andrea Romano, materassi, mentre invece i titoli di Stato tassati al 12,50 non sono materassi ma sono entità che lavorano, che lavorano e producono, che lavorano. Quindi abbiamo, diciamo, ufficialmente cambiato il nome del PD, che non diventa più Partito Democratico ma diventa Propaganda Delirante. E questo è quanto. Io vi dirò che ho una riflessioncina su quello che è accaduto a Roma, Feyenoord Roma, perché, scusate un secondo, non mi soffermo, non do giudizi sui tifosi organizzati nell'ala minoritaria ma molto preoccupantemente aggressiva delle curve del Feyenoord. Dico una cosa, cioè, chiunque abbia una minima cognizione di come si è evoluto il calcio nei paesi avanzati da decenni a questa parte sa che il fenomeno degli hooligans, delle curve aggressive e violente, era un fenomeno presente in altri paesi molto più gravemente che in Italia. Allora, sbagliando e imparando, però, i grandi paesi, a cominciare dal Regno Unito, ma non solo il Regno Unito, ecco, hanno nel tempo imparato a gestire, a elaborare, a sviluppare e anche a cambiare procedure, tutte le procedure del caso, per gestire in assoluta sicurezza per gli altri tifosi e per il resto della cittadinanza, per la società, questi fenomeni, abbattendo del 97, 98, 99% il tasso di violenze su cose e persone. Allora, la mia domanda è: perché in Italia invece non abbiamo imparato? È giusto prendersela come il Feyenoord? Certo, ma la mia opinione è che se qualche testa non vola mai negli responsabili della sicurezza che deve traguardarsi con UEFA, gli altri club, eccetera, eccetera, e deve avere procedure ferree su queste cose, le teste devono volare in Italia. Vedo che non volano, siamo tutti dei maestri nell'autoassoluzione, però poi queste cose si ripetono. Questa è la vera ragione, tradotto, per cui molti colleghi scrivono: ma come mai quando vengono in Italia fanno così e non altrove? Perché in Italia, tra virgolette, sanno purtroppo che le nostre procedure non sono come quelle degli altri paesi, e la colpa però a questo punto è nostra, e io lo dico a voce bassa, qualche testa dovrebbe forse rotolare, altrimenti, ragazzi, vabbè, possiamo sempre dichiarare guerra all'Olanda, però non mi sembra, certo, che siamo ben avviati su quella strada. I politici tutti lì a dire adesso paghino loro, ho capito, paghino loro, non lo so, vedremo, però intanto abbiamo un apparato di sicurezza, e non ce l'ho con i poveri poliziotti e carabinieri, che giustamente sui giornali oggi dichiarano: beh, ma Alfano, il questore, qualcuno ci vuole dire come ci dobbiamo comportare? Questo testimonia che loro vengono mandati lì senza direttive precise, senza procedure precise, che significa da quando si sbarca dall'aereo fino a quando si reimbarca con tutti gli strumenti chiusi, perché quei tifosi vengono trasportati in maniera nominativa su autobus, così, nelle altre capitali europee. Da noi invece è il fai da te. Il fai da te significa venite sfasciate. Questo io la penso così, ohimè. Questa è la mia opinione e mi dispiace per chi ci ha rimesso per l'ennesima volta. Della belva. Eccoci, tornati in diretta in questo sabato mattina, sono le 10:17 primi, speriamo di non turbare troppo la serenità dei vostri sabato mattina, io lo capisco, siamo tutti avviati a questo primo compleanno di governo, a un anno fantastico, però ogni tanto c'è qualcuno anche che mette qualche pulce nell'orecchio, per così dire, no, non ti pare, caro Roberto? Ma sai, è un anno vissuto un po' propagandisticamente. Propagandisticamente, sì, c'è stata una modifica del linguaggio, c'è stata una modifica della copertura televisiva, non so, a me sembra che siamo entrati in un tunnel di autoillusione. Francamente, un anno di governo così, io devo dire, mi aspettavo cose molto diverse, sono profondamente deluso. Però se non puoi uscire dal tunnel, almeno arredalo, e mi pare che è quello che sta facendo, diciamo. Questo non è male, è il design del resto. Esatto. Però guarda, io sono... la capacità di questa autopoiesis, cioè questo fatto di plasmare la realtà, che è diventata la vera chiave di questo Presidente del Consiglio, e questo gli va riconosciuto, cioè gli va riconosciuto il fatto che così ha ottenuto dalle informazioni in media, se guardi i talk, non do un giudizio, per carità, faccio un'osservazione, praticamente il vero unico spazio in termini di tempo rilevante, perché poi il tempo... ha un senso, perché se non hai il tempo non puoi fare obiezioni coordinate, organiche e serie, è praticamente dato solo a Landini e alla CGIL, alla FIOM, neanche alla CGIL. È così. Allora, io non discuto, viva le opinioni di Landini diverse, però lui ha ottenuto anche questo. Adesso ci darà la riforma della RAI, apprendiamo che quella settimana prossima c'è la riforma della RAI, Presidente del Consiglio, bene, vediamo. Nel frattempo il povero Gubitosi non ha parlato una volta col Presidente del Consiglio in un anno, dice ai giornali. Vedremo come sarà questa riforma. Voi chiamateci, la vostra canzoncina, i vostri auguri a Renzi, siamo in attesa. Cominciamo a parlare di una questione che tra le tante che quest'anno verrà risolta dal governo. Lo slogan è stato basta con il precariato nella pubblica amministrazione e quindi via con l'assunzione entro un anno di tutti i 140.000 precari della scuola che stanno nelle cosiddette GAE. Cosa sono le GAE? Le graduatorie a esaurimento. Allora, questa settimana è uscito uno studio della Fondazione Agnelli, trovate come sempre i documenti di cui parliamo, se aprite il portale di Radio 24 e andate in programmi Conti della Belva, trovate lì tutti i file e uno di questi, il primo di questi è esattamente questo studio della Fondazione Agnelli. Cosa dice questo studio della Fondazione? Lo sintetizzo brevissimamente, dice che di questi 140.000, per così dire, ci sono diversi problemi. Quali sono i diversi problemi? C'è innanzitutto un problema di concentrazione geografica, perché, esempio, mi limito a questo, in provincia di Milano, dice il testo della Fondazione Agnelli, servono ogni anno tra i 50 e i 100 insegnanti di matematica, nelle graduatorie a usarimento ce ne sono a settembre solo 31. In altre parti d'Italia, anzi in tutto il sud, il rapporto è assolutamente opposto. Quindi abbiamo innanzitutto un problema di geografico che è tradizionale alla pubblica amministrazione, ma in questa graduatoria esaurimento della scuola è fortissimo, fortissimo divario rispetto a dove servono. Esatto. Rispetto a ci sono gli insegnanti sbagliati, delle materie sbagliate, regioni sbagliate. Esatto. E invece di quindi partire dal fabbisogno degli studenti, partiamo dall'offerta, da quello che c'è già. E questo significa materie scientifiche pochi posti rispetto a quelli da coprire, materie letterarie un'infinità di posti rispetto a quelle da coprire, e questo è il secondo problema. Terzo problema, molto delicato, perché non vogliamo mancare di rispetto a chi sta nelle graduatorie esaurimento, la Fondazione Agnelli solleva una duplice questione. C'è chi tra loro, parecchi, non tocca insegnamento supplenza da anni, c'è chi poi addirittura non ha mai insegnato. Conosco già, ve lo dico, la risposta a questo dei vincitori di concorso, che dicono: noi abbiamo vinto il concorso, neanche noi abbiamo insegnato, ma però siamo abilitati a insegnare. Cosa diversa è chi è stato come precario e non ha mai insegnato, e adesso lo mettiamo naturalmente in corpo ordinario, per così dire. Ecco, queste sono solo alcune delle tante obiezioni che trovate in questo corposo rapporto della Fondazione Agnelli, che è stato rilanciato dal Corriere della Sera, e noi riproponiamo esattamente queste domande, e abbiamo degli ospiti insieme ai quali approfondire un po' di questioni. Allora, gli ospiti sono Arianno Cipriani, che è del coordinamento nazionale TFA ordinario, adesso spiegheremo di che si tratta. Buongiorno Arianna. Buongiorno, buongiorno, vi ascoltavo con piacere. Buongiorno, eccomi qua. È Attilio Oliva, presidente dell'associazione 3L. Attilio Oliva è un imprenditore che da molti anni, essendo molto convinto dell'importanza della formazione, di una formazione aperta ai sistemi comparati delle migliori pratiche del mondo, si è sempre molto impegnato sui temi appunto della scuola, dell'università e dei sistemi di formazione. Buongiorno e grazie Attilio Oliva per essere con noi. Grazie, buongiorno. Allora, cominciamo con Arianna Cipriani. Arianna, voi rispiega che cos'è il TFA ordinario. Il TFA ordinario, ecco, il TFA ordinario in realtà, detta in due parole, ma tu mi correggi, sono delle persone che hanno preso sul serio anni fa quello che disse il governo. Il governo disse: no, basta con i precari senza verifica dei titoli, voi dovete impegnarvi e superare degli esami, eccetera. Una triplice prova selettiva basata sul fabbisogno dei pensionamenti. Abbiamo preso molto sul serio nel 2012 questa innovazione e una parte di e i docenti italiani, quelli che studiano, hanno riaperto i libri e da una platea di 150.000 aspiranti hanno estrapolato meno di 11.000 TFini. Perdonate il neologismo, ma ormai ci chiamiamo così. Sì. Quindi siamo coloro che dal 2012 hanno superato una triplice prova selettiva, ripeto, triplice prova selettiva, e legata al fabbisogno dei pensionamenti, quindi a quello che si chiama organico di diritto. Esatto. E una volta percorso questo iter, tra l'altro agli italiani va detto che è un iter che è stato a spese di noi precari, perché è costato avete pagato di tasca vostra, sì. Assolutamente, quasi 3.000 euro, c'era l'obbligo di frequenza, è stato un percorso serissimo, ma ripeto, il paradosso è che una volta che noi abbiamo conseguito questo titolo di abilitazione di Stato, abbiamo perso di fatto il beneficio del numero chiuso, e questo in un paese civile non deve avvenire. Ma mi chiedo, dove si selezionano le persone e poi si perde il beneficio del numero chiuso? Perché in questo momento i TFini si trovano in una melmosa seconda graduatoria di istituto insieme a, ripeto, insieme ai nostri colleghi abilitati di Stato, che però sono stati abilitati con un percorso diverso, che era un percorso legato al solo requisito di servizio. Al solo requisito di servizio. Ma allora la domanda è, voi di fronte a questa cosa di governo che dice però i 140.000, non potete chiedere, voi che avete sostenuto delle prove aggiuntive, che chi li ha superate? Ma siete poco solidali con la stragrande maggioranza dei vostri colleghi, cioè lo Stato che vi ha detto vi vogliamo selezionare per qualità e pagate per questo, contemporaneamente vi dice però adesso non è che siccome ci avete preso sul serio avete un titolo in più. Non è che siamo poco solidali, in primis ci sentiamo fortemente presi in giro, perché di fatto non è possibile che ci ha fatto prendere un titolo selettivo, ma un numero chiuso ti deve dare un beneficio, quantomeno le supplenze annuali, e poi ci parlano di supplentite, tra l'altro termine enormemente offensivo, perché i docenti italiani abilitati di Stato che hanno mantenuto la scuola con le supplenze sono, e ora non lavorano più, mi consenta, meritano lo stesso rispetto degli esodati e lo stesso rispetto dei cassa integrati. Quindi questo termine a noi ci è proprio rimasto come un sasso nello stomaco. Chiusa parentesi, noi siamo molto solidali, ma va detto che nella seconda graduatoria di istituto, e quindi esclusi per mero criterio cronologico, ci sono abilitati di Stato che provengono da percorsi diversi, per cui ci sentiamo noi TFini presi in giro due volte: uno perché siamo 80.000 abilitati di Stato, PAS e TFA, tutti docenti oramai abilitati di Stato ed esclusi, e quindi accumulati da una sorte negativa, ma nello stesso tempo i TFini sono stati doppiamente presi in giro, perché abbiamo perso, come le dicevo, la tutela del numero chiuso e di fatto l'abilitazione si è svalutata. Non so se questo non è che ci rende poco solidari, ci rende fortemente, come dire, fortemente arrabbiati. Chi era il ministro che introdusse questo? Allora, le faccio subito una carrellata. Il PAS, che è il percorso abilitante per requisiti di servizio e non selettivo, che ha di fatto inflazionato l'abilitazione, è stato firmato da Profumo, l'ha firmato sotto una forte pressione sindacale la notte prima di dimettersi. Però aveva promesso che per i TFini, perché allora noi stavamo facendo il corso di abilitazione, il concorso concerto di primavera, ecco, che non c'è mai che stato. Naturalmente non c'è mai stato. Non c'è stato. Infatti noi dal concorso 2012, il concorso profumo che è stato bandito dopo 11 anni, non ci hanno consentito, noi che ci stavamo abilitando, di partecipare con riserva, dicendoci invece ci sarà un concorso di primavera che non c'è che stato. Non c'è. Io questa la domanda gliel'ho fatta perché nell'alternarsi di ministri ogni anno in Italia, ovviamente ogni ministro si inventa una modalità, le modalità si stratificano, naturalmente nei decenni si arriva all'ingestibilità, ricordate gli 180.000 cocopro della pubblica amministrazione, sono la pubblica amministrazione, ed ecco che poi il problema è che quando si è tentato qualche svolta a favore del merito, come questo percorso abilitativo del TFA è a tutti gli effetti, naturalmente poi ce lo si rimangia integralmente. Questa per me è una cosa grave delle decisioni del governo di non dire a chi la politica e i governi ha detto no, ci vuole più merito per dare l'abilitazione, poi non si può dire abbiamo scherzato cari ragazzi. No. Che dici Carlo Alberto? Aspetta, sentiamo Carlo Alberto che insegna anche all'università. Sì, il merito è una bandiera da utilizzare all'annuncio, ma ovviamente da ritirare immediatamente poi nell'implementazione, perché qui la logica è stata invece todos caballeros, ci servono 140.000 famiglie che votano per noi e quindi imbarchiamo tutto, e chi ha fatto un percorso duro di selezione purtroppo si mette in coda con gli altri. Questa è la realtà dei fatti, caro Oscar. Quindi insomma stiamo parlando, Mario, di un provvedimento su cui grava un forte sospetto di interesse elettorale. Sì, proprio un filo, diciamo, un'ideuzza così di interesse elettorale. Appena. Allora, come gli 80 euro, no? Cioè, ci sono 80 euro per tutti, basta chiedere. Allora, Attilio Oliva, il problema, diciamo, della selezione dei meritevoli per migliorare la qualità dell'insegnamento, nella decisione di massa del governo, chi lo solleva viene considerato un rompiscatole. Qual è la sua opinione rispetto a quello che ci aspetta con questa leva di 140.000 che arrivano, Attilio? Dunque, se mi consente, vorrei provare a invitare tutti questi amici che parlano a una riflessione elementare, e cioè che è semplicemente folle pensare di gestire 700.000 insegnanti e 200.000 personale ATA, bidelli e quant'altro dal centro del, cioè dal ministero, cioè da Roma. Queste sono persone che lavorano in 40.000 sedi, 40.000, e sono gestite dal centro. Ora lei provi a immaginare una organizzazione di questo tipo come può funzionare. Succedono tutte le incongruenze che diceva prima la signora che mi ha preceduto e mille altre, di sprechi, di ingiustizie, di iniquità, di classifiche e quant'altro, perché c'è un sistema gestito centralisticamente, cioè follemente, di circa 1 milione di persone. La soluzione elementare è delegare queste decisioni all'autonomia delle singole scuole, che o di reti di scuole, che naturalmente devono avere degli organi responsabili, il preside e un consiglio di amministrazione, che facciano le scelte giuste vivendo nel contesto in cui vivono, scegliendo gli insegnanti giusti per il contesto in cui vivono, promuovendo e premiando chi lo merita e viceversa. Finché penseremo di gestire dal centro 1 milione di persone in 40.000 sedi, affronteremo sempre incongruenze, iniquità e follie gestionali come quelle che sono state denunciate, ma ce ne sono mille altre. Allora, io sono d'accordo che su tutte le cose che avete detto finora, di interpretazioni anche un po' politiche del provvedimento della buona scuola, diciamo del progetto Giannini-Renzi. Però vorrei dire che a vantaggio di questo progetto c'è un argomento fondamentale, che per la prima volta si mette il naso dentro al problema di valutare gli insegnanti e anche i presidi. Valutare cioè le persone che sono il punto chiave della qualità della qualità dell'insegnamento. La qualità professionale degli insegnanti è il nodo principale da sciogliere, e fino ad oggi, con le GAE, le qualifiche, le graduatorie e quant'altro, nessuno ha mai guardato alla qualità professionale degli insegnanti se non superficialmente. Ora, nel progetto di Renzi-Giannini c'è per la prima volta due o tre cose. Primo, dimostrato che gli insegnanti in tutto il mondo, questo risulta da tutte le ricerche internazionali dell'OCSE ed altri, desiderano, richiedono un feedback, un ritorno sul proprio lavoro. Oggi sono lasciati soli, non sanno se fanno bene o se fanno male, nessuno glielo dice, e quindi siamo in una situazione in cui gli stessi insegnanti, ormai per 2/3, richiedono un qualche tipo di ritorno, di valutazione, di attenzione sul loro lavoro, e seconda cosa, richiedono di potersi formare sul campo sempre, non solo una volta all'università, ma per poter migliorare se scoprono di avere dei difetti. Queste due cose sono individuate nel progetto La Buona Scuola attraverso la individuazione di un 10-20% di insegnanti che o devono fare i mentori, cioè fare la formazione agli altri, giovani e meno esperti, o dirigere la scuola insieme al preside, che non deve essere lasciato come un monarca solo, ma ha bisogno di aiuto, cioè quadri che lo aiutino, perché le scuole non sono certamente aziende, ma ognuna ha circa un centinaio di insegnanti, e quindi queste persone e i programmi e tutte le iniziative vanno coordinate. Ci deve essere un gruppo che svolge una leadership distribuita tra preside e quadri, e ci devono essere dei mentori che svolgono, quelli più apprezzati, che svolgono una funzione di formazione con i nuovi colleghi che entrano, con i più deboli. La fermo qua un secondo, perché poi riprendiamo, anche perché io poi sono curioso, perché per esempio sul processo di valutazione legato al merito che era proposto inizialmente nella Buona Scuola non sono d'accordo per niente, però detto questo lo vediamo tra poco, torniamo tra 60 secondi. Fratelli d'Italia, l'Italia le resta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Tornati in diretta, eccoci, tornati in diretta, 10:37 prima, 6 secondi. Carlo Alberto. Mario. E Oscar, qui per il compleanno, in attesa delle vostre telefonate per il compleanno del governo Renzi, mentre la Grecia ha capitolato ieri sera, mentre ieri abbiamo avuto una federina di provvedimenti di liberalizzazione di cui parleremo tra poco, però adesso stiamo ancora parlando di questi luci e ombre. Molte ombre, ma anche luci dei 140.000 che verranno assunti precari nella scuola con Buona Scuola. E Attilio Oliva ci stava spiegando che in Buona Scuola però ci sono anche delle cose positive, ecco, ce ne ha illustrate due. Io credo che sia sbagliata l'idea di fondo dei concorsi a vita che abilitano a insegnare, perché secondo me che è il principio che vedo invocato da tutti in Italia. E poi seconda cosa, si parlava di valutazione, però nel bozzo originale di Buona Scuola c'era un criterio di valutazione fatto per i 3/4 dagli insegnanti dello stesso istituto, certo, autoreferenziale. Infatti il merito, signori, è una cosa che va proposto al mercato e ai clienti, non con criteri autoreferenziali di istituto. Purtroppo parlano per noi i dati PISA, i dati Invalsi. La verità è che la scuola non prepara i nostri giovani al mercato nazionale e internazionale della competenza e del lavoro. Questi sono purtroppo i fatti. Il merito bisogna confrontarselo con quello, non trovare meccanismi cervellotici con cui ci autopremiamo. Naturalmente che Alberto, lo sai che al parlare di mercato ti mette automaticamente sotto le artiglierie. Io mi aspettavo invece che un governo di questo genere aprisse a una scuola in cui noi non sussidiamo gli insegnanti, ma sussidiamo l'insegnamento agli studenti, sussidiamo l'istruzione, cioè trasferiamo i fondi per cui io pago le tasse agli studenti e non agli insegnanti. Invece il liberi focus di scegliere è il focus di questa cosa dell'offerta. E ancora una volta partiamo dagli insegnanti. No, signori, si parte dai discenti, non dai docenti. E lo dice uno che fa questo mestiere. Il lavoro di chi fa scuola deve partire e ritornare allo studente. Quello è il focus da cui deve partire tutto. E siccome dobbiamo abbassare, caro Oscar, di un ordine di grandezza il costo unitario di un anno scolastico, noi dobbiamo studiare per molti più anni, per molto meno durante l'anno, e avere un processo di formazione permanente. Invece stiamo rappezzando questa scuola per farla durare ancora qualche annetto, così sperando che cambi il contesto macroeconomico. Non cambierà, noi non stiamo formando i giovani, abbiamo un gap di cultura, di tecnologia, lo vediamo anche qua, no? Guarda, mancano un sacco di insegnanti tecnico-scientifici e abbiamo il doppio degli insegnanti artistico-musicali di quelli che ci servono. E questa è la scuola che affideremo ai nostri figli? E la affideremo per le promesse nei decenni della politica fatta ai precari. Vi daremo un posto se vi ci ricordate di noi alle elezioni. Guarda qua, infatti abbiamo gli sms, no, che ci dicono: bisogna che gli insegnanti in quota 96 vengano mandati in pensione in modo tale da liberare spazio per i precari. No, come se fosse appunto, Mario, un modello super fisso, perché dato una quantità fissa di posti si tratta semplicemente di fatti più in là in modo tale che posso entrare io. Sì, a quota 96 è stato un errore, nel senso che appunto l'anno scolastico non coincide con quello solare, è stato un errore abbastanza marchiano. Esatto, però già è proprio il numero che non mi quadra tanto, proprio quel 96 che non mi pare. Poi sentiamo anche parlare di mestiere usurante tra quello degli insegnanti, allora forse bisogna fare un discorso un po' più. Quota 96 è la somma dell'età, sì, anagrafica e dei versamenti. Esatto. Allora, c'è Grazia da Modena che ci telefona per intervenire sui temi appunto di cui stiamo parlando in questo momento della scuola. Grazia, prego. Buongiorno a voi, buongiorno a chi ti ascolta. Cercherò di essere breve perché il mio gatto sta puntando un pesciolino di Murano. Ah. E io volevo parlare con voi. Io sono un funzionario della Ragioneria Generale dello Stato e sono un revisore scolastico. Per buona parte della mia vita amministrativa ho seguito il percorso di carriera degli insegnanti, quindi parlo solo da questo punto di vista, non dal punto di vista del merito come state facendo voi. Non sono in grado, ovviamente le mie idee, ma non sufficiente esperienza. Ecco, allora, il percorso di carriera degli insegnanti è stato fino adesso contraddistinto da un lungo periodo di pre-ruolo che, nel momento in cui veniva trasformato in ruolo nelle modalità più diverse, diventava anzianità di servizio e quindi sì, maturato economico, sì, soldi, sì. Ok? Sì. Benissimo. Questa immissione in ruolo cancella questa modalità, per cui chi viene immesso in ruolo viene immesso all'iniziale dello stipendio, non viene riconosciuto il servizio pregresso, quindi è una soluzione a basso costo economica di una situazione esplosiva. All'inizio dell'anno scolastico, credo tutti sappiano, è una corsa a ostacoli per formare tra le classi, gli insegnanti, corpo docente, sì, esatto, le classi eccetera eccetera, e chiaramente potere. Però grazie, posso farle un'osservazione? Sì. Ci sta illustrando, e io la ringrazio per la precisione con cui lo fa, che l'intervento nasce, diciamo, per una fisiologica esigenza di quasi ordine pubblico del governo attuale rispetto alle decisioni assunte per anni dai governi precedenti per dare una soluzione a basso costo a una bomba che è quella di centinaia di migliaia di persone in queste condizioni all'interno della scuola. Domanda, grazie. Questo ci conferma nel fatto che noi della scuola ci occupiamo per chi ci lavora dentro, per gli errori che ha fatto la politica negli anni e nei decenni, certo, per chi ci lavora dentro, per risolvere un problema che è quello: come facciamo adesso a mettere questa gente, facendoli tornare nel gioco dell'oca da zero, come se fosse l'inizio della loro dipendenza amministrativa nel corpo dello Stato che svolge la funzione di istruzione? Ma tutto questo col problema di una scuola capace di formare, che cosa ha a che fare, grazie? Ma secondo lei è il problema che ci si pone? No, assolutamente, infatti. Il problema si pone totalmente autoreferenziale. La buona scuola per chi? Per gli insegnanti, per gli organici, per il quieto vivere delle formazioni delle classi all'anno? È questo per cui paghiamo le tasse? No. Ma voglio dire, la funzionalità alla soluzione di un problema è esattamente coerente con il problema che si vuole risolvere. Cioè, se io voglio risolvere il problema della formazione, faccio altro. Ah, ecco. Tutt'altro. Ah, ecco. Completamente altro. Sì. Se io voglio risolvere la bomba sociale, faccio questo. E allora, d'accordo, certo, stiamo parlando, certo, di un provvedimento di regolarizzazione delle asimmetrie accumulate per gli errori della politica all'interno della pubblica amministrazione. Chiamiamolo però salva dipendenti pubblici. Sì, esatto. Ecco. Ma non chiamiamolo buona scuola. Ecco. Adesso, la mia opinione, io non voglio criticare, perché non sto... Grazia ci dà la certificazione che esiste un problema enorme, però chiamiamolo per quello che esatto. è. Esatto, non usate la parola scuola, che è sacra, che è strumento di mobilità sociale, che è l'unica cosa per cui lo Stato pubblico ha, come dire, un senso, perché eleva chiunque partendo dalla eguaglianza di opportunità. Non usate quella parola sacra per riferirsi a mere pastette burocratiche della funzione pubblica. Per favore, giù le mani dalla parola scuola. Avendo detto, per esempio, alle migliaia che hanno preso sul serio qualche anno fa lo Stato, che rispetto alle graduatorie di esaurimento, no, ci sarebbe stato un titolo supplettivo riconosciuto a chi si impegnava, faceva esami e li superava, versando soldi per, naturalmente, per fare corsi di tasca propria, come sono quelli dei TFA presi per i fondelli, perché ci hanno creduto allo Stato che vuole il merito, ci hanno creduto, invece non dovevano crederci. Questa è la mia banale impressione. Grazie a Grazia, e spero che il pescino di Murano non abbia avuto danni, perché ci ha proprio dato la conclusione a cui volevamo arrivare. È un provvedimento di salvaguardia per i dipendenti pubblici che, come sempre, continueranno, malgrado decenni di promesse mancate da parte della politica, a continuare poi a crederci, perché questo è il punto su cui noi poi non abbiamo una pubblica amministrazione che si fa misurare ex ante ed ex post sui suoi risultati, accettando l'idea, che noi promuoveremmo molto volentieri, che non ci si sta dentro a vita, ma ci si sta dentro solo se quei risultati li si raggiunge, perché solo così la pubblica amministrazione serve a rendere per se stessa e per noi tutti uno strumento capace di far fare al paese quello che serve per recuperare l'enorme spazio accumulato di ritardo. Io la penso così, però naturalmente siamo degli avvoltoi, per così dire. Della belva. Eccoci qui, tornati in diretta in questo giorno successivo al primo compleanno del governo Renzi. Auguri, auguri, auguri. Matteo! Oh, auguri. Però, ma com'è che piove, ragazzi, oggi? Magari dobbiamo comprare il governo Renzi. No, ma piove. Ragazzi, ma qui non hanno informato l'altissimo, ma è l'altissimo, è diventato un gufo, un avvoltoio, oppure lui fa piovere il giorno dopo il primo compleanno del governo Renzi. No, stiamo tutti scherzando. Eccoci qui, tornati dopo questo primo blocco su luci e ombre dei 140.000, grazie alla dirigente funzionaria della Regione Generale dello Stato, che ha detto: guardate, non c'entra niente con il merito, è una maniera per risolvere la bomba sociale all'interno del pubblico. Un'eccellente telefonata e grande valore aggiunto, ogni tanto c'è anche quello. È una forma di deflazione interna degli stipendi della pubblica amministrazione: paghiamo meno, ma paghiamo tutti. Come questo dice, è altro che la buona scuola. State Ulisse, buoni se potete. Come basta, dice Ulisse, un nostro ascoltatore qui con il suo messaggio: chiamiamo lo stipendio pubblico per tutti. Vabbè, d'accordo. Un altro. Enza ci dice: il mestiere usurante è quello dei liberi professionisti, partite IFA eccetera eccetera, che si vedono tutti i giorni senza prego, succederà domani, altro che il posto pubblico per tutti. E vabbè, d'accordo. Adesso andiamo a un'altra meravigliosa apparizione e scomparizione che è avvenuta questa settimana in questo gioco dell'udinismo perfetto, del fregolismo perfetto, perché non tutti gli annunci vengono naturalmente con il buco come le ciambelle, alcuni bisogna ritirarle con la stessa velocità con cui sono apparsi: la tassa sul contante. Mario, ma che cos'era questa tassa sul contante? Ma se ho capito bene, era un'idea che poi filtrata non so dove, ma questa è una cosa che meriterebbe una trattazione separata, perché ci sono un sacco di bozze che circolano, bozze apocrife eccetera. Questo era molto vero nel governo Letta, lo so anche per esperienza personale, diciamo, che non approfondisco, però in sostanza i versamenti di contante su conto corrente eccedenti ai 200 euro sarebbero stati assoggettati ad un'imposta di bollo, poi non ricordo se proporzionale, progressiva o che cosa, per disincentivare non i prelevamenti o l'utilizzo del denaro come mezzo di transazione, no, ma i versamenti, versamenti. I versamenti. Quindi, per la serie, il mondo alla rovescia. Certo. Poi pare che sia stato un ballon. Teneteveli, metteteli. No, è stato un ballon de sé. No, metteteli nel materasso, nel materasso, no? Come direbbe quello l'onorevole vero. Professor Andrea Romano. Quello e vero. Quindi già, è stata una cosa abbastanza surreale, però, per vedere di nascosto l'effetto che fa, come diceva Iannacci. Esatto. L'effetto è stato praticamente un tripudio social di sdegno, e adesso approfondiremo, insomma. insomma. Ecco. Naturalmente non sappiamo neanche questa volta esattamente come già avvenuto per la soglia depenalizzante del 3% delle frodi fiscali, non sappiamo chi l'ha partorita e dove. Esatto. Cioè non si capisce se è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, se è Palazzo Chigi, a che punto del processo di cottura della pasta al pomodoro dei provvedimenti legislativi che nascono. Sono spariti. Però ci sono, questo è il punto. Non è che ce la inventiamo noi giornalisti, ci sono e corrono il rischio talvolta di essere poi adottate dritte dritte in provvedimento e in decreto. Quindi chi scrive questi provvedimenti fiscali che muoiono ancora prima di arrivare al traguardo, vengono ritirati, non hanno padre neppure madre, è un problema di scie chimiche effettivamente. Siccome siamo alla legislazione tramite slide, funziona come la dissolvenza incrociata, vedo e poi non vedo più, capisci? Sì, ma è quasi cosa da paragnostico, che si forma proprio, si legifera. Ma è una cosa da paragnostico, qualcos'altro. Diciamoci la verità. Allora, però, siccome l'ipotesi può riapparire, approfondiamola un secondo con il professor Dario Stevanato, che insegna diritto tributario all'Università di Trieste e che, diciamo, ha fatto un interventino critico con un titolo che era tutto un programma. Allora, questa tassa sul contante, dal punto di vista ordinamentale, diciamolo in maniera seria, a lei che impressione ha fatto per quei giorni in cui era sul tavolo? Sì, buongiorno innanzitutto. Sì, un'impressione negativa, perché il problema del contante in realtà esiste, cioè insomma è sotto gli occhi di tutti che le transazioni non registrate, non contabilizzate avvengono soprattutto utilizzando questa forma di pagamento non tracciato e così si spiegano anche i tentativi fatti nel passato di limitare l'uso del contante, no? Pensiamo al limite dei 1000 euro come tetto per i pagamenti in contanti, che peraltro diciamo ha una sanzione antiriciclaggio, ma serve più che ad evitare che avvengano delle transazioni in nero, diciamo così, perché poi se le due parti, non so, l'artigiano piuttosto che il professionista, si accorda col proprio cliente per un pagamento non tracciato, lo fa e basta, e non c'è grande possibilità che questo poi possa emergere a posteriori. Però serve sicuramente a evitare che una volta che un soggetto ha fatto del nero, lo possa poi facilmente reintegrare nei circuiti della distribuzione organizzata, cioè chi si trova a maneggiare molto contante per aver fatto il nero ha poi la difficoltà di andarlo a spendere. Qui si potrebbero dire anche altre cose, tipo il fatto che in fondo questo diciamo non è di per sé la soluzione, perché potremmo anche avere dei fenomeni di selezione avversa, cioè il soggetto che ha del contante lo va a spendere all'estero per non essere tracciato, e questo è un capitolo. Da qui si erano fatte strada delle proposte di andare ancora a monte, cioè tassare istituire addirittura un prelievo fiscale sui prelevamenti dai conti. Qui diciamo si tratterebbe di un'ipotesi secondo me non percorribile per diversi motivi, perché il prelievo in sé non è che denota una maggiore ricchezza, una maggiore capacità di contribuire di chi lo fa, cioè lasciare i soldi sul conto piuttosto che prelevarli ancora non significa nulla. Né possiamo secondo me assumere che chi fa un prelievo poi farà dei consumi, perché non si tassano le intenzioni di consumo, si tassano i consumi effettivi, abbiamo già l'IVA per questo. Ecco, Dario, non mette in giro il processo all'intenzione, perché no. Qui al governo viene anche in mente di tassare le intenzioni invece. Certo, sì, c'è questo rischio, c'è effettivamente questo rischio, però ecco, fino a questo punto, fino a qui noi avevamo diciamo l'individuazione del problema che sta nell'esistenza del contante e eventualmente nei prelevamenti, che poi appunto si può assumere che vengano usati per transazioni non siamo sui problema. Depositi. Esatto, adesso ci arrivo. Quindi si era individuato il problema, ma non ancora la soluzione. Invece la buttata dell'altro giorno è totalmente incomprensibile, perché la tassazione dei versamenti è diciamo del tutto assurda, ma sotto tanti profili, perché ad esempio tutte le attività che regolarmente fatturano o scontrinano, no? Pensiamo ai supermercati, ma anche a tutti gli esercizi commerciali che non fanno nero ma regolarmente registrano le operazioni commerciali, si trovano con del contante che ovviamente, no, come, non come direbbe qualche politico, non rimane sotto il materasso ma va versato in banca. Qui non si capisce perché penalizzare. Vabbè, come ogni bar, ogni tabaccaccio, ma io la domanda che le faccio, professore, ma se così non sta, almeno insomma, mi conferma e ci conferma che non sta in piedi, possiamo dire che chi stende questa ipotesi forse gli mancano proprio dei fondamentali e non dovrebbe stare dove sta? Questa è la mia preoccupazione, possiamo dirlo? Possiamo dirlo, sì, cioè qui non è questa l'unica vicenda che denota. Ecco, e allora siccome non è questa, allarme cari ascoltatori, dobbiamo individuare chi nel procedimento di redazione delle misure fiscali non conosce l'ABC ed è peggio anche di chi è malintenzionato ideologicamente, perché l'ignoranza è in grado di produrre delle devastazioni. Della belva. Ed eccoci tornati in diretta qui la compagnia dei Conti da Belva. Carlo Alberto, Mario e Oscar Giannino. Allora, sentiamo un pochino qualche sms di quelli che ci hanno mandato gli ascoltatori sui temi che abbiamo finora trattato. Ce n'è uno divertente, dice: caro Oscar, c'è già il prelievo da parte dello Stato sulle intenzioni. Franceschini, ministro Franceschini della cultura, ha tassato l'acquisto di hardware sulla base del fatto che probabilmente copierai musica o contenuti coperti da copyright. Vero, lo Stato ti legge nel pensiero, è giusto, ti tassa perché dici, vedi, siamo al pre-crime, ti ricordate Magnoli? La psicopolizia. Esatto, così. A me piace questo, sono insegnante, tra i miei colleghi di ruolo e non di ruolo c'è una grande passione e grande volontariato, i nostri risultati non sono di basso livello, gli studenti ci chiedono di lavorare e noi lo facciamo, però a fianco di questo c'è anche qualche messaggio tipo questo: buongiorno, sono Pietro, dalla provincia di Milano, a settembre mia figlia andrà in prima elementare, abbiamo fatto qualche open day delle scuole per scegliere dove mandarla, nella statale la vicepreside, nonché insegnante, non sapeva nemmeno mettere il dito per accendere il PC per fare vedere le slide previste. La scelta è stata obbligata, scuola privata, ahimè, perché naturalmente bisognerà pagare molto di più. Allora, come vedete, ci sono le due facce, per così dire, di questa scuola di cui parliamo. Sì, perché la scuola è fatta da eroi e da lavativi, questo è il problema. Finché non la esponiamo alla scelta del mercato, qual giudizio, l'unico giudizio di merito che conta, che non è della burocrazia, ma dei fruitori, delle famiglie e degli studenti, fino a quel momento, mi dispiace, nessun meccanismo riuscirà a produrre la selezione necessaria a questo paese. Mercato, e adesso per una mezz'oretta, mentre ancora una volta in ginocchio, rivolgiamo i nostri fiduciosi pensieri al Presidente del Consiglio affinché allevi tutti i nostri mali dopo un anno di questo governo. Aspetta, hai detto allevi. Questo è freudiano, no, certo. Allevi tutti i nostri mali, perfetto, non avevo colto, eccellente, mancava lei, allevi, no, ma non c'era la Ivo, allevi, sì, appunto, si tratta di allevarli, perché crescete e moltiplicateli, lui li alleva, esatto. E poi ne trae il giusto merito e poi noi esprimiamo il nostro disagio, ecco, esatto. Okay. Detto questo, adesso per mezz'ora parleremo di questi due provvedimenti molto importanti di questi giorni, uno il mille proroghe e vedremo che ce n'è dentro di cose molto divertenti, e l'altro le misure per legge di concorrenza che questo governo ha emanato per la prima volta dal 2009, come sottolineato dall'antitrust. Ci sono parecchie cose buone e naturalmente ci sono delle cose che sono saltate fin dall'inizio, certo. Sentiamo prima però due ascoltatori. Anna Maria da Verona, prego. Anna Maria, pronto, buongiorno. Buongiorno, io mi riferivo al fatto di quello che è successo, dei tifosi, che è successo a Roma. Ci dica. Io adesso prometto una cosa, io non ho niente contro le forze dell'ordine, sì. Però io sono stufa e penso come tanti altri cittadini di pagare le tasse per poi spendere questi soldi in questa maniera. Soldi pubblici in questa maniera, quando i soldi pubblici dovrebbero essere spesi per esempio per mettere le forze dell'ordine fuori dalle scuole, per il discorso della droga, per tante altre cose. Poi dico una cosa forte: queste persone dovrebbero essere incanalate davanti allo stadio e fatte entrare come del bestiame e proibire che poi si disperdono dopo la partita nelle città. Anna Maria, non deve dire come bestiame, ma quello che sta dicendo è esattamente le modalità che si seguono per evitare esattamente la gestione in sicurezza degli hooligans. È esattamente questo, cioè i trasporti dagli aeroporti, dalle stazioni agli stadi e così via sono trasporti invigilati e con mezzi chiusi. Quindi si figuri, Anna Maria sta proponendo una cosa di assoluta ragionevolezza, quindi allora, non si deve come scusare. Mai sono finiti in Piazza di Bravo. Spagna? Ecco, come mai questo vuol dire che noi non abbiamo imparato la lezione, per questo qualche testa dovrebbe rotolare. Ecco, e un'altra cosa, che e poi chiudo, che le società sportive si interessassero di queste cose, che pagassero loro questi danni. A me non me ne frega niente dello sport, del calcio, anche perché il calcio non è più uno sport, sono interessi, soldi. Attenzione, Anna Maria, si sta inimicando tutti i tifosi del calcio. Però lei dice che le società vengano responsabilizzate, e anche questo, certo, andiamo da Tavecchio. Tavecchio, che usa i soldi della Federazione del Gioco Calcio per far comprare i suoi libri, quindi sa Anna Maria, anche lì ci sarebbe molto da riflettere. Luigi da Roma, prego Luigi. Buongiorno. Buongiorno. No, io volevo riferirmi al discorso che facevate sulla buona scuola, sì. No, perché anche sull'università secondo me dovreste fare una riflessione. Mm-hmm. Cioè, sapete oggi come si diventa professori associati o professori ordinari? Se noi abbiamo legato le carriere dei ricercatori universitari importando il modello anglosassone, no? Quindi io verrò valutato, sono un ricercatore, verrò valutato sulla base del numero di pubblicazioni che faccio. Mm-hmm. Quando prima si diceva mettiamo al centro gli studenti o comunque gli utenti, i fruitori, sì. Se io faccio didattica oggi è controproducente per me, quindi a me conviene fare il minor carico didattico possibile, chiudermi in una stanza e scrivere il numero maggiore di paper. Questa è una cosa tremenda, perché fra l'altro abbiamo importato quel sistema anglosassone senza importare però la riforma principale, cioè dividere le carriere fra chi si dedica alla didattica esatto. No, perché sennò sembra che si dipenda dal modello anglosassone questo cosa. Diciamo, no, è che... ne abbiamo importato un pezzo senza sposarlo, però questo è Luigi, e fai bene però a ricordarci, grazie per questa telefonata, ma sull'università ci torneremo a dire la verità. Allora, adesso sul mille proroghe invece e sulla Federina, lenzuolatina, sì, non so come sul chiamarla, sacco a pelo, diciamo, sul sacco a pelo della concorrenza, e con l'eroica ministra Guidi che è stata intordata su molti capitoli, fatemelo dire all'inizio, esprimo il mio personale giudizio negativo oltre il limite del disprezzo verso i ministri del nuovo centrodestra. Che la destra in questo governo serva per tenere chiuso invece che per aprire, cioè per stare più a sinistra nella conservazione del PD e del Presidente del Consiglio, la dice lunga sui problemi della destra italiana, perché i pezzi persi dal provvedimento prima di entrare in Consiglio dei Ministri, cioè la liberalizzazione dei farmaci fascia C nelle parafarmacie di grande distribuzione, ne abbiamo parlato in puntate nella versione di Oscar, 1, 2, la liberalizzazione dell'offerta dei servizi e del lavoro nei recinti portuali, 2, 3, quella che è relativa agli NCC e ai taxi, tutte queste robe sono cadute perché i ministri del centrodestra, Lorenzin e Lupi, le hanno fatte cadere. Per me, per quello che mi riguarda, la FIOM e la CGIL sono più a favore della concorrenza di quanto non siano questi ministri del neocentrodestra, che evidentemente hanno bisogno di voti, hanno bisogno in qualche modo di vincere qualche elezione da qualche parte, per tornare con o contro, non me ne importa nulla, nel merito disdoro assoluto naturalmente per le loro roboanti dichiarazioni. Detto tutto questo, parliamo di questi provvedimenti con due colleghi che ne hanno molto ben seguiti in questi giorni, e anzi ci hanno raccontato anche alcune cose che erano fuggite al più dei giornalisti, che sono Luca Cifoni del Messaggero, buongiorno e grazie di essere con noi. Ciao Oscar. E Alessandro Barbera della Stampa, buongiorno e grazie anche ad Alessandro. Ciao, buongiorno a voi. Allora, partiamo dal mille proroghe. Luca, tu hai tirato fuori due chicchette niente male, una sui partiti, che insomma, ecco, e un'altra, diciamo, in materia di misure di contenimento, mi scappa da ridere, della spesa dello Stato, su un bel favore fatto ai comuni in materia di acquisti e appalti. Ci puoi spiegare di che si tratta? Sì, la prima, comincio da quest'ultima, come sapete si parla tanto di risparmiare sugli acquisti, sono tanti anni che parliamo di spending review, e il governo Monti aveva cominciato giustamente, anzi non era stato neanche il primo, ma insomma, aveva cercato di rafforzare il discorso delle centrali acquisti, cioè io sono un ente pubblico, un comune, una regione, un ASL, qualsiasi cosa, devo comprare una fotocopiatrice, devo comprare qualsiasi cosa che mi serve per lavorare, ovviamente devo cercare di comprarla a prezzi più contenuti possibili, e questo facilmente lo faccio se passo per una centrale di acquisti, cioè se non ne compro una all'anno ma vado su quantità più, questo è l'ABC. Con il governo Monti era stato previsto per i comuni non capoluogo di provincia l'obbligo di consorziarsi in centrali di acquisti per beni e servizi di committenza per gli appalti. Questo obbligo è slittato fino, era anche una cosa a cui aveva lavorato Cottarelli, che come sapete aveva tra gli obiettivi anche quello di ridurre le migliaia e migliaia di centrali di acquisti che esistono in questo paese, era slittata fino al 1 gennaio di quest'anno, e Mille Proroghe, su pressione dell'Associazione dei Comuni, ha ritenuto di portare questa data al 1 settembre. Al 1 settembre, quindi slitta per un altro anno. Possiamo pensare che poi ci sarà per fino a settembre i comuni possono comprare. Ho capito, Luca, partite, però era il premier miracolosamente risolutore di tutti i problemi italiani a un anno del suo governo, e lui che dice, che ha ripetuto per qualche mese, poi ha smesso di dirlo, che passavamo da 35.000 stazioni di acquisto e appalto a 35, però il suo stesso governo evidentemente la pensa diversamente. Quindi niente spending review sull'accentramento degli acquisti nei comuni, si continua ciascuno a fare prezzi per gli amici degli amici. Guardate, quando si tratta di dirvi che la spesa pubblica basta con l'austerità, la spesa pubblica c'ha decine di miliardi, decine e decine, non controllate attraverso piattaforme trasparenti e centralizzate, che sono quindi inefficienti dal punto di vista del prezzo marginale e soprattutto proliferazione di corruzione collusiva con privati che non possono stare sul mercato se non a prezzo di un politico, che pagano per avere un prezzo che non è di mercato. Questo è il motivo per cui non fanno l'accentramento degli acquisti, caro Alberto, o no? Ce n'è un altro, ce n'è un altro. Io 15 anni fa, quando partecipai alla nascita di Consip come progetto, non feci un progetto di centrale acquisti, feci un progetto di demand management. Ti spiego: un conto è comprare una siringa o un reagente, un conto è comprare il rispetto delle norme sul trattamento del diabete. Ecco, io penso che la spesa pubblica abbia un senso se compra gli output e non i mezzi. Certo. Quindi le piattaforme d'acquisto non servono soltanto a risparmiare su acquisti di mezzi, ma devono comprare il risultato finale mettendo a gara non tanto e non solo il prezzo, ma le modalità organizzate dai privati per ottenere il risultato. Questo è il modo giusto di fare spending review, non semplicemente sconti di volume, l'ottimizzazione, che è comunque importante, sia chiaro, ma non è il modo giusto. La spending review si fa mettendo a gara i risultati con lo Stato che paga il minimo indispensabile per ottenere la finalità per cui si pagano le tasse. Della belva. Eccoci qui, tornati in diretta con i compari dei conti della belva, Carlo Alberto, Mario e Oscar. Abbiamo con noi qui Luca Cifoni e Alessandro Barbera. Abbiamo iniziato a parlare di alcune delle chicche che ci sono nel mille proroghe. Una l'abbiamo vista: niente più obblighi per i comuni, slittano da anni per consorziare gli acquisti e gli appalti. Ma non c'è solo quello, Luca, c'è anche un'altra perlina che riguarda un favoretto fatto ai partiti politici. Con la proroga a beneficio della stessa classe politica e dei partiti, più precisamente, perché come sapete con il nuovo meccanismo che ha superato quello precedente relativo al finanziamento dei partiti, è stato stabilito che i partiti stessi si possono finanziare tramite diciamo così, le donazioni che gli fanno i contribuenti in dichiarazione dei redditi. Devo dire che questo meccanismo, mancano ancora i consuntivi, ma pare abbia avuto un successo, come dire, limitato, ecco, da parte dei contribuenti stessi. Però comunque, per accedere a questo meccanismo, i partiti dovrebbero rispettare delle regole, quindi far vedere i propri rendiconti e ottemperare a certe regole. Avevano tempo per fare ciò entro il 30 novembre dell'anno scorso, onde poter concorrere a questo meccanismo per l'anno 2015. Questo termine è passato, ma non c'è stato nessun problema, perché nei primi giorni di febbraio il Mille Proroghe ha detto che il termine veniva portato al 31 gennaio, si noti bene, un termine che era già scaduto, quindi era una chiara sanatoria ex post di quello che è avvenuto, e quindi chi non aveva fatto in tempo ha fatto in tempo lo stesso, a differenza di quanto avviene per i cittadini, che le scadenze magari le devono rispettare. Vabbè, e queste sono... Naturalmente però, Luca, domanda, come mai su questi provvedimentini di solito, tranne gli scrupolosi, ci sono, come te, come Alessandro e così via, però su cose come queste, che pure secondo me dicono molto della politica, i titoli, i giornali non li fanno. Perché, Luca? Ma ci sarebbero tanti motivi da dire, da valutare. Diciamo che il milleproroghe è anche un provvedimento molto, molto complicato, in cui volutamente si parte, è divertente il meccanismo, divertente o triste il meccanismo, triste. Per cui si parte con il 28 dicembre, quando si fa questo decreto che si fa tutti gli anni, con delle proroghe, e ci si rimettono un numero, magari, come è capitato quest'anno, diciamo così, moderato. Poi nel corso della conversione in Parlamento le proroghe aumentano, raddoppiano, triplicano, gli stessi termini inseriti nel testo del governo vengono spostati in avanti, cioè se il governo aveva spostato una cosa al primo luglio magari viene portata al primo ottobre, quindi diventa un quadro. Però Luca, vogliamo dire una cosa, che il concetto stesso di proroga è la negazione dello Stato di diritto, che quando uno Stato chiama una legge mille proroghe sta negando l'esistenza stessa dello Stato di diritto. Vi faccio un paio di esempi di cose che ho seguito negli anni, perché voglio dire, c'è una normativa che riguarda gli alberghi, che devono adeguare i propri sistemi di prevenzione degli incendi. Adesso non entro nel merito, forse non sono neanche in grado di farlo, se è una norma giusta, non giusta, esagerata. Comunque c'è una norma che nasce nel 1994, sì, che dice che gli alberghi, alla data del 1994, con più di 25 posti letto, devono adeguare i propri sistemi antincendio. Questa cosa è stata rimandata di anno in anno e da ultima è finita nel milleproroghe. E adesso vi dico che cosa ha detto il deputato riminese del PD, Tiziano Arlotti, che è il primo firmatario della proroga, che ha spostato dal 30 aprile al 31 ottobre. Naturalmente questo signore ha detto, beh, sarà l'ultima proroga. Beh, come sempre, però, come sempre. È sempre l'ultima proroga. Sigaretta. Però voglio dire, non questa cosa va avanti dal 1994, allora o questa normativa non va bene e non la adottiamo, oppure sono passati 21 anni, c'è una legge del 2003 in materia ambientale che dice che i rifiuti, aspetta vi dico, con potere calorifico inferiore a 13.000 kJ per chilo non possono andare in discarica. Questa norma, non lo so, anche questa, capisci che Luca... Dal 2007 non potevano andare in discarica, sono d'accordo, e nel 2008, 2009... La mia domanda un po' autocritica sul chi fa informazione è che nella congerie di norme tecniche che poi non vengono portate a compimento, che vengono prorogate, la politica ci infila dei bei favori a se stesse, al pubblico, come sono evidenti i due casi di cui abbiamo parlato, perché uno non può annunciare da 35.000 a 35 stazioni d'acquisto e poi finisce sempre per gli obblighi stabiliti dai governi precedenti slittano di un altro anno, perché vuol dire che stai barando con una delle cose fondamentali, ed è questo il motivo per cui hai cacciato Cottarelli, tanto per essere chiari. Ma infatti, Oscar, io ti faccio una lettura di questo, come dire, di questo fenomeno. Purtroppo il problema è che c'è una proroga per tutti, però sta di fatto che a me la proroga per pagare le tasse non me la danno, i partiti che non fanno i rendiconti del 2013 se la pigliano, ecco, questo è l'essenziale. Vorrei dei giornali in cui partiti hanno un regalo da Renzi, ecco, metter titoletti così ogni tanto servirebbe, perché secondo me anche lui si regolerebbe di conseguenza, lui come tutti i presidenti del Consiglio pro tempore. Allora, cambiamo un secondo capitoletto e andiamo invece a provvedimenti sulla concorrenza. Alessandro, qual è il tuo giudizio? Stamattina, diciamo, prendo solo due articoli, cioè Repubblica, Alessandro De Nicola, che inizia con i pezzi che sono saltati, ma riconosce che il ministro Guidi ha fatto parecchio e comunque porta a casa su notai. È vero, lo riconosciamo. Esatto, notai, il ministro Guidi ha veramente fatto, nelle società di ha fatto una battaglia silenziosa ma importante. Purtroppo, devo dire, il bilancio complessivo delle liberalizzazioni di questo governo è disarmante, veramente deludente, dobbiamo dircelo. Anche perché ci sono forze interne che sono proprio profondamente contrarie è il concetto di mercato, di mette in di contendibilità del leggerò mercato. Poi no, ci leggi qualcosa? No, leggere, no, no. Prima sentiamo che ne pensa Alessandro Barbera della Stampa, poi leggerò un excerptum da un'intervista resa da un ex ministro che fa il farmacista a questo proposito. Alessandro, però, la tua impressione qual è del provvedimento di ieri sulla concorrenza? Quello che aveva portato la Guidi al tavolo di Renzi era il libro dei sogni, cioè era stato fatto il copia e incolla delle raccomandazioni dell'autorità antitrust e dall'A alla Z c'era tutto ciò che andava liberalizzato. Quello era un libro dei sogni, neanche nel paese, nemmeno negli Stati Uniti avremmo potuto sperare di ottenere tutto questo. Fai il realista, vabbè. Però è la verità, insomma, bisogna essere anche onesti. Dopodiché il risultato che è uscito non è un topolino, perché insomma, è un topolone, diciamo, una cosa. Ci sono un po' di cose che hanno rotto le scatole ad alcuni, meno ad altri, e questa è una cosa, diciamo, sulla quale possiamo discutere. I notai hanno preso una discreta vignata, questo va detto. Questo è vero. Ovviamente bisogna vedere quanto adesso i notai si faranno valere in Parlamento, perché certo. Queste le MCD si sono organizzate militarmente. Ieri in Consiglio dei Ministri c'era Alfano che si è dedicata ai notai, Lupi che si è dedicata ai porti, la Lorenzini che si è occupata dei farmaci e la De Girolamo che è stata impegnata sui trasporti, i farmaci, è stato lavorato un po' su tutto. Quindi bisogna vedere in Parlamento cosa resterà. Un grande partito del mercato, quello elettorale. Punto. Esatto, questo è un disegno di legge e quindi in Parlamento ne può succedere la qualunque. Monti, ricordiamo, nel 2012 portò una cosa più o meno simile, ne venne fuori il nulla quasi. L'unica cosa che Monti portò a casa e che peraltro in Parlamento stanno cercando di smontare è la liberalizzazione dei negozi, dell'apertura dei negozi anche la domenica. Rimase solo quello, era un pacchetto più o meno simile a questo. Allora, sui notai, quindi i notai hanno preso una discreta legnata, gli avvocati hanno ottenuto una cosa che volevano, le società di capitali, quindi non si può dire che gli avvocati abbiano subito chissà quale ondata liberalizzatrice. Sui farmaci è stata una debacle totale, perché il governo voleva fare una cosa che era la terza o la quarta volta che un governo tentava di liberalizzare i farmaci di fascia C. Anche questa volta ha vinto la retorica del hanno vinto gli anziani, come se gli anziani fossero così stupidi da non sapere che se comprano un farmaco in farmacia piuttosto che in una farmacia cambia qualcosa. C'è sempre un farmacista che gli dà il farmaco e vabbè, dobbiamo convincerci che nelle farmacie si possono comprare questo tipo di farmaci. Renzi però, che è diciamo realpolitik, ha ottenuto qualcosa in cambio, mettiamola così, sempre che poi Renzi volesse liberalizzare i farmaci di fascia C, perché noi non sappiamo esattamente quali fossero le sue intenzioni, diciamo, segrete, o quanto ha lasciato fare la cattiva figura ad Alfano e ai suoi, perché in questo è bravissimo. Allora, che cosa ha ottenuto? Ha ottenuto che le farmacie non debbano essere più aperte solo ed esclusivamente da farmacisti, e salta il limite per il quale un farmacista, perché finora potevano essere solo i farmacisti, potevano aprire non più di 4 punti vendita. Cosa significa questo? Significa che i farmaci non sono stati liberalizzati, ma le farmacie sì. E quindi... Ecco, io qua ti volevo, c'è un doubt da esti, perché c'è. Qua leggo l'intervista al ministro fino a pochi giorni fa, Maria Carmela Lanzetti, Lanzetta del PD, che sono ministro per gli affari regionali, è tornato a fare il suo mestiere in Calabria, dove sembrava dovesse fare l'assessore, ma è saltato, perché fa la farmacista. E su questo punto, che è, diciamo, nel doubt des, niente farmaci di fascia C, quelli che, ripeto, sono a totale carico della finanza di chi li compra, ma sono con prescrizione medica e si comprerebbero in una parafarmacia GDO comunque con un farmacista, quindi chi dice il contrario non è menzognero, difende una bella fetta di mercato e la difende solo le farmacie, e questo è il punto vero. La Lanzetta, in cambio però del fatto che il governo gli ha dato l'ingresso di società di capitale nelle farmacie ed è saltato il limite delle 4 farmacie, così commenta oggi in un'aurea intervista: che cos'è la concorrenza? E chi controllerà da dove vengono i capitali di chi aprirà un punto vendita? Guardi, le barriere all'ingresso sono una salvaguardia. Con l'apertura dei capitali apriranno più farmacie, solo dove c'è più domanda. Capite che lei lo dice per paradosso. Lo dice per paradosso. Questi sono i ministri a cui non noi affidiamo la soluzione, questi qua, ma io voglio farmi, guarda, una qualunque cosa, ho apposta teatralizzato, sì, lo dico apposta, perché il ministro, l'ex ministro Lanzetta in realtà è in perfetta buona fede nel crederlo, cioè nella difesa dei suoi interessi di farmacista, ed è questa la linea che in realtà vince quasi sempre, caro Carlo Alberto e Mario. Il ministro degli affari propri, che cosa no, io sono tenuto a mantenere un certo understatement che peraltro l'intervista l'ho fatta io, quindi diciamo lo so bene. Allora, te ne saremmo grati un pezzo di letteratura giornalistica e segneremo nelle scuole. Lo rifiuto. vorrei diciamo essere, diciamo, quindi mantengo l'understatement per dire che la signora Lanzetta, però, siccome è stato ministro, ahimè per lei, noi sappiamo quanto guadagna. Allora, non ne faccio una questione pauperista, lungi da me fare ragionamenti di questo tipo, ma siccome l'ex ministro Lanzetta ha dichiarato l'anno scorso più di 1 milione di euro di reddito, significa che la sua farmacia non solo è al servizio del cittadino, c'è lei, e alle 3 di notte c'è bisogno di una bombola di ossigeno per una persona che ne ha bisogno, lei c'è, poi naturalmente gli ho detto, ho dovuto dirle che mi permettevo di dubitare del fatto che avesse una bombola pronta per qualcuno che la venisse a chiedere, ma ci ho detto, il problema è che il piccolo dettaglio non vuole menzionare e sul quale glissa dicendo si guardi da Federfarma è il costo dei farmaci, perché se ne è così alto è perché evidentemente i farmaci nella sua farmacia sono molto costosi. Qual è il problema delle farmacie in Italia? Non sono così poche in fondo, ce ne sono, insomma in fondo non si guarda in giro, ce ne potrebbero essere di più, ma il vero problema delle farmacie è che sono gestite come delle botteghe, esattamente come un secolo fa, non ci sono economie di scala, non c'è specializzazione, fanno tutti la stessa cosa, perché non sono imprenditori, sono farmacisti, non hanno studiato in una scuola di management, non conoscono cosa significa distribuire e quindi in buona sostanza vendono sì un prodotto avendo la proprietà, avendo, come dire, gli strumenti per spiegare al malato se è una medicina giusta o sbagliata, ma gliela fanno pagare tanto perché non e gliela fanno pagare cara, sì esattamente, però naturalmente loro sono il presidio di base, la trincea più avanzata del sistema sanitario nazionale, la garanzia degli anziani, di tutti coloro nei confronti dei quali lo Stato deve adottare il principio che non sanno valutare, non sanno scegliere, perché lo Stato è il grande padre, è il grande fratello, anzi è grande e basta, e Dio ha compiuto un anno, si chiama Renzi, risolve tutti i problemi, grazie. Va che io ringrazio colleghi come Alessandro Roberto e Luca Cifoni che ci fanno capire meglio, con un po' di ironia anche, certo non come me che sono un trasgressore, ma sono un giornalista, sono un avvoltoio, e quindi quando leggo queste dichiarazioni le teatralizzo un po', e devo dire sì, lo sappiamo, cioè abbiamo enormi numeri di sms e telefonate in questo momento da farmacisti, tassisti eccetera eccetera, ne prendiamo atto, per così dire, lo sappiamo come la pensate, noi la pensiamo diversamente, in un paese democratico ci si confronta, intanto grazie a Luca e grazie ad Alessandro, a tra poco. I conti della Belva. Allora, eccoci qui tornati per quest'ultima parte dei conti della Belva con i compari Carlo Alberto, Mario, eccoci qua, e Oscar. Leggiamo, c'è un messaggio bello, sì, che c'è un bel messaggio di Valeria che dice: ho letto che il ministro Lorenzi non vuole la vendita dei farmaci di fascia C nelle parafarmacie per proteggere gli anziani. Giusto, ha ragione, ha ragione, perché oltre ad essere anziani ovviamente siamo anche deficienti e ci piace sperperare le nostre laute pensioni comprando farmaci inutili. Brava Valeria, davvero. Senza il ministro Lorenzin che pensa a tutelare gli anziani dicendo cosa loro faremmo compare? Senza il ministro Lorenzin e il suo partito, cosa? Senza Lupi che naturalmente Lupi tutela il monopolio dell'offerta di lavoro nei porti, siamo agnelli tra lupi siamo, ok. Allora adesso andiamo a un'altra divertente particolare vicenda che ho scoperto questa settimana grazie alla segnalazione di un collega che abbiamo in ascolto con noi insieme al presidente di Asso Intrattenimento. Perché se non siete addetti ai lavori non sapete che in Italia il regime di tassazione cambia a seconda del minuto, dei minuti di musica dal vivo degli intrattenimenti musicali, perché naturalmente lo Stato trova sempre un modo per inventarne una nuova. L'effetto l'effetto paradossale di questo regime di tassazione che non è uguale in tutti gli altri paesi avanzati. E naturalmente adesso ci facciamo raccontare qual è naturalmente l'impoverimento generale di un settore di un paese, perché la gente va altrove a fare. Allora, è con noi, io ringrazio innanzitutto Lorenzo Tiezzi, che mi ha scritto appunto segnalandomi quello che stava succedendo. Buongiorno e grazie Lorenzo. Ciao, sono orgoglioso di partecipare al mio programma preferito. Ma no, lascio perdere. Dunque, allora, che cosa è successo? Qual è la manifestazione che è saltata e perché? Allora, la manifestazione si chiama Sensation, è un festival organizzato da una società olandese ed americana che si chiama ID&T, che c'è un po' in tutto il mondo, è nato in Olanda una quindicina d'anni fa, ma lo fanno in Russia, a Dubai, in Brasile, in Romania, negli Stati Uniti, e qua non lo fanno più, perché l'hanno fatto per 2 anni e adesso quest'anno doveva esserci il 18 aprile, è stato appena annullato perché per i primi 2 anni hanno avuto una sorta di trattamento di favore, ossia è stato considerato che fosse come le Cirque du Soleil, ad esempio, no? Perché il produttore italiano si chiama Fregnani, è quello che porta in Italia proprio le Cirque du Soleil. Invece adesso è stato trattato come una qualsiasi serata in discoteca o un festival di musica con i DJ. E quindi, siccome quando c'è la musica registrata, no? Perché quando c'è il DJ, lo Stato ci dice che c'è la musica registrata, e il DJ è come se non ci fosse, e quindi si paga anche il 16% di tasse in più, questa famigerata imposta sugli intrattenimenti. E quindi, con questi costi in più, che sono molto alti, perché Sensation ha un impianto spettacolare unico, costa più quello dei DJ, è veramente uno spettacolo molto diverso da una semplice serata con un DJ, e questi qua finiscono. Questa è una situazione veramente paradossale, perché gli organizzatori poi le cose le fanno altrove, siamo circondati da grandi festival in Croazia ad esempio, e qua ci sono, ma non di quel livello, proprio per problemi anche di tasse, perché lo Stato ti dà una sleppa di aliquota in più se non c'è la musica dal vivo. Qua dipende quanti minuti di musica dal vivo fai. Sì, se tu superi il 51%, quindi il 51%, paghi questo 16% in più. 16% in più. Ecco, è una cosa semplicemente folle, che evidentemente nasce anche da un motivo culturale, no? Perché chissà come mai, ora io vorrei uno Stato leggero che non si occupi di ste robe qui, ma comunque si ritiene che la musica dal vivo sia migliore di quella registrata. Vabbè, la tutela culturale alla francese, solo che 16% di differenza è una roba da ladri, diciamoci le cose come stanno. Allora, sentiamo il presidente di Asso Intrattenimento sugli effetti nel lungo andare di un regime fiscale così cervellotico con lo Stato che distingue i minuti di fonte di produzione musicale per cambiare le aliquote del 16 o del 18%. Luciano Zanchi ci dice: voi che fate di fronte a questo? Allora, intanto buongiorno a tutti. Noi cosa facciamo? Noi stiamo combattendo contro uno Stato contro il quale ci sembra di rimbalzare, no? Di fatto questa norma discende da un decreto legislativo del 26 febbraio 99 e questo decreto ha operato una riforma della disciplina fiscale per le attività di intrattenimento, abolendo la vecchia imposta sugli spettacoli ed istituendo l'imposta sugli intrattenimenti solo limitatamente ad alcune attività. Con tale riforma il legislatore ha distinto fra attività di intrattenimento e quelle di spettacolo. Intrattenimento, quelle in cui c'è la partecipazione attiva del pubblico, e spettacolo, quelle in cui non c'è la partecipazione attiva del pubblico. Quindi istituendo, facendo pagare questa imposta sugli intrattenimenti nuova, che ha sostituito la vecchia imposta sugli spettacoli, solo a quelle attività in cui c'è la partecipazione attiva del pubblico. L'assurdità di tale imposizione. Cos'è partecipazione attiva? Che significa? Che se uno Stato tipo applaude, cos'è? Partecipazione attiva oppure no? No, per capire. Stia attento. Quando una persona partecipa attivamente a uno spettacolo, sì, si ha l'intrattenimento. Quando non partecipa attivamente, quindi partecipa passivamente. Cioè, tipo è una rappresentazione. Ma il capolavoro che hanno fatto si realizza quando, al fine di essere in presenza di attività di spettacolo, con il successivo mancato assoggettamento al tributo, è sufficiente che la musica dal vivo debba essere cronometrata in misura pari o superiore al 50%. Quindi, se in un evento c'è la musica dal vivo cronometrata superiore al 50%, il locale non paga l'imposta sugli intrattenimenti, che è il 16%. Volevo anche significare un'altra cosa molto importante. i nostri locali sono soggetti all'IVA al 22%, certo. Poi hanno l'imposta sugli intrattenimenti che è il 16%, certo. E poi c'è la SIAE che è il 5%, certo. Quindi abbiamo un prelievo immediato sui nostri incassi del 43%. Okay. E poi dobbiamo pagare i costi aziendali, i dipendenti, no, certo. E tutti i costi che l'eventuale rimanenza va a profitti e perdite e viene ulteriormente tassata, ma è chiaro che in queste condizioni un'azienda, un imprenditore non possa più esercitare un'attività. Preferisce andare a fare fuori frontiera, certo, per così dire. C'è un SMS bellissimo che le chiedo di commentare. La musica riprodotta con o senza DJ viene definita musica meccanica, tipo quella, penso, di Mozart, esatto. No? Se il pubblico balla, però la tariffa è più alta, quindi state fermi, non vi muovete, che ci beccate il 16% dell'IVA, dovete inchiodare gli spettatori al pagamento. Aumenta il prezzo del biglietto. No, ma lei tenga presente anche che la prima commissione tributaria di Savona l'anno scorso ha emesso sentenza evidenziando che l'attuale normativa nazionale è in aperto contrasto con l'articolo 401 della direttiva CE, quindi di fatto è illegale, ma naturalmente sia pur sicuro, quando la Corte Costituzionale arriverà, come nel caso della Robin Tax, anche a giudicarla in Costituzionale, si terranno tutti i soldi che hanno incassato. Ma io mi aspettavo che a questo punto ci fosse anche un fuorilegge di sentenza delle commissioni tributarie provinciali sul tipo di danza oltre la quale c'è la partecipazione attiva e scatta il 16%. Arriviamo, per esempio, i lenti no, ma invece si può tacchinare ma con l'occhiolino, ecco, non allungate le mani, mi raccomando. Comunque, che se c'è il 16% di tassa. Solidarietà veramente a tutti voi del settore di assointrattenimento. Grazie a Lorenzo Tiesi che ce l'ha segnalato. Voi che siete in ascolto, riflettete, ma cioè viviamo un paese in cui scatta il 16% in più se per caso se siete attivi, dovete essere passivi, ragazzi. 50% passivi. Dovete essere passivi. Ma che cosa? 50 sfumature di grigio in salsa tributaria, questa roba qua. Ma che razza di paese. Della belva. Eccoci qua, tornati in diretta, i compari dei conti. Carlo Alberto, Mario. Abbiamo registrato però poche telefonate in arrivo sul canzoncino per il premier. Questo testimonia che non avete ancora compreso lo spirito vero di questa manifestazione. Siete dei gufi? Come cantano i gufi? Tra l'altro l'ascoltatrice che dice: ma guardate che nel congiuntivo tra allevare e alleviare non c'è differenza. Apposta. Guardate, no, ragione, no, prendete, ma ho sbagliato, No, ma aspetta, non è quando tu hai fatto un'osservazione, io ho detto no, non c'è la I. Perché c'era, lo sappiamo che congiuntivo è quello, però siccome va per i due verbi allevare e alleviare, capite che l'ambiguità era tutta a giocare sul doppio di Renzi. Insomma, non fateci per più. Come accoppiare e accoppare. Esatto. Ok, vabbè. Perfetto. Speriamo di avere, diciamo, precisato, esatto, meglio, precisato. Diciamo, le nostre capacità linguistiche. Meglio. Allora, è con noi per la parte finale, ma poi metteremo anche le due telefonate che sono lì in ascolto, lo so, eccetera, eccetera. Però intanto Cifarelli, il grande Renato Cifarelli. Come stai, Renato? Buongiorno, bene. Allora, qual è la chicca? Non si può fare che oggi hai fatto il cattivo, non sei venuto in studio, ci dai per prima radio? Prima di tutto mi volevo unire agli auguri al nostro Presidente del Consiglio. Che tanto ha fatto e tanto farà. Grazie, almeno tu, dai un pensiero a Matteo, grazie Matteo, auguri. E poi mi chiedevo, siccome io sono uno springsteeniano, che lui suona dal vivo, però noi cantiamo, mi chiedevo se è partecipazione... No, quella è partecipazione attiva, paghi il 16% in più. Oppure no, vabbè, comunque detto questo ci penserà Claudio Trotta. Soprattutto se uno nel pubblico allunga le mani sulla fidanzata, pressione attivissima, 32%. Vabbè. Quello tuo su quella degli altri. No, onanismo, quello. Cioè, la tassa morale, 48% a quel punto, assolutamente. Dai, dici sul non si può fare un qualche esempio per farci sorridere. Allora, a tutti è capitato, spero non come imputati, di andare in tribunale, abbiamo visto quanta carta c'è. No, dai, adesso non cominciare. Con Renzi c'è il processo civile telematico, è già subito. No, ma scusami, io tutte le volte che vado, mi è capitato di andare, per fortuna, ripeto, mai imputato. I tribunali mi sono sempre chiesto se hanno il nulla osta antincendi dei vigili del fuoco. Con tutta quella carta. Con tutta quella carta in giro. Quindi, appunto, abbiamo fatto un passo avanti e quindi abbiamo fatto il processo civile telematico. Quindi l'uso del computer, l'uso dei fogli, dei PDF, i documenti trasferiti telematicamente, non disboschiamo tutta la Finlandia per fare la carta. Il Tribunale di Milano ha fatto un accordo con gli avvocati chiedendo una copia di cortesia. Cioè, tu fai tutto il processo telematico. Però il povero presidente dice dammi la copia cartacea, dai. Però, insomma, quando tu depositi un atto, sono un signore anziano. Vogliono la copia di cortesia. Quindi di cortesia, cioè, è una cortesia che ti faccio. Peccato che il 15 di gennaio un giudice ha condannato un avvocato secondo articolo 96 del comma 3 del codice di procedura civile, in quanto non ha depositato le copie di cortesia. Ha capito, il processo telematico dice, beh, di cortesia però non ci depositi la copia cartacea, ti condanno. Condannato per scortesia. Cortesemente condannato. Cortesemente condannato, e siccome tu sai che le fotocopie costano care, l'importo è 5.000 euro. No, è la faccia della miseria. 5.000 euro di fotocopie, scusa, Renato. 5.000 evidentemente era una cosa molto molto scortese, molto, no? Capisco, insomma, il presidente del tribunale. Beh, voglio sperare che in appello questa condanna sparisca, però. No, io l'unica speranza che ho è che è questa, che visto che era un fallimento, il giudice volesse dare un po' più soldi al curatore. Guardi, il fallimento purtroppo è del sistema giuridico italiano, devo dire la verità, purtroppo, no? E se non riusciamo neanche a scollinare su questo spunto, 5.000 euro per essere stato scortese e non aver fatto le fotocopie, e vabbè. No, ma poi proprio il problema, ne ho letta un'altra, però non ho visto se era giusta la fonte, e quindi la posso citare, ne ho visto un'altra sui social network questa settimana di un giudice che aveva messo praticamente un cartello sulla porta della sua sezione. Diceva portatemi anche la carta perché io mica posso stare tutto il giorno davanti al computer. No, ma pare che sia vera, però, perché io ho chiesto ad amici avvocati e me l'hanno confermata. Allora, questo è ma però noi siamo tutti scettici. Ah, tra l'altro c'è un ascoltatore, evidentemente qualche reazione dell'ambiente anziano c'è. È arrivato. Guardate, vai. Che nessuno vi trattiene in Italia, potete anche emigrare. Io purtroppo c'ho l'azienda che c'ha un certo immobile abbastanza grande e c'ho qualche difficoltà a spostarlo. ma lo possiamo sempre intestare al presidente del consiglio. Tu pensa che a me sono venuti dei miei collaboratori a dire cosa facciamo in Italia. È filosofica sta cosa, altrove, diciamo. Andiamo altrove. Vabbè. Certo. Allora, qualche altro ascoltatore si aspettava di più su Tsipras. Ragazzi, ha capitolato. Corso d'opera, hanno capitolato, però Varoufakis ha detto sarà un weekend di gioia e creatività, per cui già questo dovrebbe inquietare, quindi è un work in progress, ne parleremo magari settimana prossima. Comunque io vi segnalo, guardate che Katamerini c'è anche in inglese la parte del giornale greco in inglese, le prime dichiarazioni dell'ala sinistra di Siriza che dice no, non ci stiamo, questa è una capitolazione, ci avevano promesso tutto il contrario, prevedo che il duro linguaggio della realtà, atterrare con i piedi per terra e capire che la democrazia non è il sistema dei debitori che non pagano, come non è il sistema solo dei creditori che vanno pagati, ma non è neanche quello dei debitori che non pagano. Però Schäuble nella sua perfidia ha detto sarà difficile per i greci spiegare questo esito ai propri elettori. Non ho capito se era, diciamo, una forma di trolleggio o altro, o brutale realismo, diciamo, ecco. Allora, io mi scuso con i farmacisti e i tassisti, farò trasmissione nel corso della settimana con loro, comincerà da domani, per ricominciare a parlare, per darvi la modalità di esprimere tutte le vostre ragioni. Avete vinto comunque, quindi come sempre avete vinto, no, non è per mancanza di rispetto, ci tornerò con la versione di Oscar, non vi preoccupate. Nel frattempo, una nota di speranza su questa prossima settimana che comincia da Carlo Alberto e Mario. Bah. Una nota di speranza? Il silenzio, diciamo. Silenzio. Viva il Presidente del Consiglio! Continuate con Radio 24. Auguri, Matteo! Viva Matteo!